che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credo che si vada a Scandinavia o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma guarda, per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli. Inizia il radio spettacolo e non posso chiamarla diversamente, visto che la sigla con la quale esordisco, apro ufficialmente Easy Riders anche per questo lunedì 12 maggio, insomma, mi fa veramente pensare allo spettacolo. Ecco che arriva con su. Tutto il bene Mox Radio Spettacolo, ti prego. Pensavo di ribattezzarla così, non ti piace. Ma Radio Spettacolo tutta la radio o solo il tuo programma? Solo il mio programma. Allora no. Allora va bene. Un applauso per Mox, ha fatto la solo di batteria in Piazza Liberty Cristo d'Oro. Oh, bello, questi nomignoli mi piacciono. Va bene, come potete riconoscere la voce di Edo Rossi, dopo ti coinvolgo perché c'è un argomento che è materia tua e quindi stai in zona prima di andare poco a tempo, cena. Poco tempo, però è un onore far parte di Easy Rider. Allora dammi il tempo di aprire lo spettacolo, ovviamente ringraziando come avete fatto voi tutti per tutto il giorno, giustamente, lo splendido pubblico che abbiamo avuto l'onore di vedere dal palco di Piazza Liberty a Milano. È stato quasi più bello per noi guardare che loro sentire quello che facevamo. Effettivamente, se si parla di scambio di energia tra le masse, sicuramente quella che voi avete fornito a noi è stata sicuramente elevata. E quindi grazie veramente a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi, a tutti gli amici, anche i genitori, figuriamoci che c'erano persino i genitori nelle prime file. C'erano persino i genitali addirittura. Ci siamo portati tutti. Abbiamo fatto un concerto con le palle. Ecco, bravo, è il caso di usare queste metafore. Va bene, torniamo a noi. Io vorrei anche collegarmi al nome di questo programma, proprio perché ieri notte, casualmente, hanno dato Easy Rider il film e ce lo siamo rivisti e il commento è stato: oh, ma erano proprio due cialtroni veri, forse meritavano un po' la fine che hanno fatto. Allora io ho scelto per iniziare un disco degli Iron Butterfly che si intitola Metamorfosi, dal quale non vi faccio sentire vi faccio sentire proprio Easy Rider in onore al film e in onore a questo programma. Iron Butterfly 1971. Around the feet, Eccoci, erano gli Iron Butterfly, una voce totalmente riconoscibile. Adesso abbasso e entriamo con una base più utile per questo programma. Allora, l'album, vi ripeto, era Metamorphosis, il loro disco registrato nel 70 ma poi pubblicato proprio a cavallo tra il 70 e il 71, e questa era Easy Rider per tributare il titolo di questa trasmissione, ma anche il film che abbiamo rivisto ieri con questi dialoghi italiani, francamente a 39 anni di distanza un po' terrificanti. Detto questo, noi li sfruttiamo ugualmente perché insomma è un film importante, vero Edo? Siete all'ascolto di Radio Spettacolo, conduce il nostro Corrado, Mox Cristadoro. Bravo, povero Corrado, dai, potevi dire anche Pippo Baudo, insomma. Secondo me era più bravo Corrado, è più simpatico Corrado. Giusto, buona considerazione. Allora, io chiamo in causa Edo, perché lui di solito lo fa con me, no? Quindi quando... Per una volta la cosa diventa reversibile. Io sono orgoglioso di avere colleghi così preparati. Io sono orgoglioso di fare la mia seconda ospitata ufficiale a Easy Rider. Esatto. Dopo la puntata sui chitarristi, le chitarre. E quella ti vide proprio protagonista per un'ora. Mamma invece... mia, la mandiamo in replica subito. Esatto, questa è più fugace. Al microfono Ego Rossi. Allora, l'antefatto è questo. Come voi tutti sapete, dopo vi do i contatti. 335-100-7777, mi state già scrivendo, mi state già diciamo inoltrando il vostro piacere di venerdì, e la cosa è ovviamente reciproca. Però l'antefatto è questo: essendo stato il mio compleanno settimana scorsa, Edo ha deciso di farmi un regalo e è riuscito a fare una cosa insospettabile, cioè a regalare un disco a me. Sono riuscito a regalare un disco a Mox, cioè lui che è del 1975 ha osato regalare un disco a me, cioè io che sono un drawline degli Aerosmith, hai capito? Esatto. No, e quindi però è andato sul sicuro, perché lui sapeva di una mia forte lacuna, e il motivo per cui io poi l'ho chiamato qui. Allora, cosa succede? Che il disco che mi ha regalato Edo, oltre ad un bellissimo libro, ovviamente... A parte che, secondo me, se semplicemente facessimo chiedere agli ascoltatori qual è... Se potessimo chiedere agli ascoltatori qual è il libro che ti ho regalato, il disco che ti ho regalato... Potrebbero anche indovinare. Sì, ci arrivano. Allora, non menzioniamolo. Facciamo che vi faccio ascoltare un pezzo tratto da questo disco. Non è difficile. Esatto, però... Sì, beh, conosciamo che devo andare, dai, diciamo. Allora, parliamo subito. Allora, inquadriamo la situazione. Il disco si intitola Appetite for Destruction. Oh. E ovviamente mi mancava, nonostante si tratti di indubbiamente uno dei più grandi dischi della storia del rock, quantomeno della decade 80, sancito anche dal numero di copie vendute. È un dato di fatto, questo è uno dei best seller della storia della musica, e ci sarà un motivo, insomma, vuol dire che qualcosa di buono c'è dentro, e Edo lo sa. Allora, io chiedo a Edo cosa c'è di buono in questo disco. No, guarda, visto che, io credo che, allora, ovviamente sono parole mie filtrate da quelle che in realtà poi sono in realtà le notizie e i dati di fatto. Allora, la Geffen Record aveva fortissima necessità di pubblicare o di dar vita a una band che fosse tipo i Motley Crue, visto e considerato che comunque era molto contenta di quello che i Motley Crue stavano facendo e del fatto che c'era una certa attenzione su questo tipo di musica. Trovarono questi ragazzi assolutamente scapestrati che suonavano questa musica così diretta, e che tra l'altro, oltre ad avere una in realtà discreta, in una appena sufficiente capacità tecnica, avevano però una grandissima, secondo me, capacità comunicativa. Insomma, questi erano pezzi che arrivavano dritti al cuore, e lo si vedeva da come venivano seguiti nei localini di Los Angeles in quel periodo, e cose di questo tipo. Tanto che un background che partiva giustamente dal basso. Sì, no? Loro partivano ovviamente dal basso, tutti avevano avuto delle altre esperienze, e comunque qualche testimonianza adesso è stata pubblicata. È uscito per esempio un disco che si chiama The Roots of Guns N' Roses, dove è stato ripubblicato un demo di 5 canzoni degli Hollywood Rose, nei quali all'interno c'era soltanto Axl Rose e Dizzy Stradling, che insomma si sente quali erano le coordinate dalle quali partivano, e quindi ci sono degli Iron Maiden, ci sono dei Judas Priest, c'è una base che potrebbe ripartire. Perché Easy Rider, e ti stai contestualizzando molto bene, però quando dite che sono prolisso io, ragazzi, cioè no, Ego mica scherza. Mox. La base. Sei riuscito a far finire la base. Cambiamo, dai, ti metto questa, magari ti piace di più. Perfetto. Senti questa. Ah, benissimo. Benissimo. Più enfasi, bello. Bon. E quindi, insomma, questo è sicuramente quello che ha dato il via a quello che è stato Appetite for Destruction. Poi voglio dire che in realtà i problemi tra di loro e i problemi di affidabilità della band fossero in realtà una cosa che nasce dai primi tempi, lo si capisce dalla pubblicazione dell'EP Live Like a Suicide, che in realtà non è stato un EP pubblicato per qualche motivo particolare, è stato pubblicato perché ci misero così tanto a registrare Appetite for Destruction che la casa discografica disse: no, io devo far uscire assolutamente qualcosa. E allora inventarono la pantomima dell'EP Live, che in realtà era un disco di 4 tracce registrato in studio con l'aggiunta del pubblico per testare che fine, cioè per vedere come la gente avrebbe reagito a un disco dei Guns N' Roses. Andò molto bene, tanto che poi, insomma, il resto è storia. Il 31 di luglio, il giorno del mio compleanno dell'87, e anche di quello di mia madre, ricordiamo, esatto, uscì Appetite for Destruction, e il resto è storia, insomma. Fantastico, quindi non è casuale che sia uno dei tuoi album preferiti. Assolutamente. E allora io ti ringrazio per avermi coinvolto, per avermi reso partecipe, e adesso finalmente hai colmato una lacuna nella mia discreta discografia personale. Appetite for Destruction, che io, come sai, considero il colpo di reni dell'hard rock. Esatto, mi hai anche spiegato perché fuori onda. Se vuoi, io dopo l'ascolto di questo pezzo ti do la possibilità di rientrare a spiegarlo. Vabbè, però dai, scegli tu. Vuoi... Va bene, dai, veloce, dai. Dai, allora ci ascoltiamo Rocket Queen, perché ovviamente a Easy Rider si ascoltano i brani che non sono praticamente mai, ad eccezione di alcuni, in rotazione. Questa è Rocket Queen, loro si chiamavano Guns N' Roses, forse si chiamano ancora così, e siamo nel 1987. Rocket Queen, ovviamente l'estratto da Appetite for Destruction, deciso da Easy Rider, l'ultima traccia di questo multimiliardario album che ha reso i Guns N' Roses una band da rock and roll stradaiolo a band di massa. Però questa non era colpa loro e quindi è giusto dirlo. Edo, se sei d'accordo? Sì, anche se in realtà forse sono stati consacrati alle masse con i vari User Illusion. Sì, perché insomma diciamo che sono stati più le uscite, ovviamente quelle più easy, alla Don't Cry, alla Knockin' on Heaven's Door, che hanno concesso. Sì, però perdonami, dopo la rivalutazione di brani come Welcome to the Jungle, It's So Easy, non parliamo di Sweet Child O' Mine, che probabilmente è il loro pezzo più amato Pensa che Slash ha sempre detestato Sweet Child O' Mine, e quando è arrivato a portare in sala di incisione questo rifettino iniziale di Sweet Child O' Mine, lui non l'ha neanche portato dicendo senti raga, si è messo lì e ha detto guardate, cioè mi è venuta fuori sta stronzata qui, suona così stupido, e gli altri hanno detto bloccati, è geniale, la facciamo, e lui l'ha sempre detestata, anche se credo che quello di Suicide on Mine, la solo centrale, quello intero, sia uno dei più belli in assoluto della storia del rock. Va bene, allora io leggo al volo un po' di messaggi che arrivano al 335 100 7777, gli altri scriveteli pure a mox@radiorockfm.com, ma soprattutto a mox@rockfamily.it. Allora partiamo dall'alto, quindi l'ordine cronologico inverso, sì. E partiamo, io ho il vinile prima della censura, voi? Anch'io, io ne ho due versioni. Io no, perché appunto mi ha regalato l'altro ieri Appetite for Destruction, la mia prima e penso ultima copia, grazie. Tra l'altro permettimi una piccola parentesi, nella Nottedo che farò martedì prossimo, esatto, trasmetterò cose mai ascoltate dei Guns N' Roses. Bene, bene, quindi per tutti i fans inediti come Easy Rider. Chiara dice la canzone più bella dei Guns, dedicala a me per... no, com'è? Dedicala per me a quei fichi di Fede e del Naldi. Bene. Va bene, gliela dedichiamo, tanto non l'ascolteremo. Ah no, forse è questa, forse era Rocket Queen, speriamo che sia questa. Andre dice, ciao ragazzi, l'LP dei Guns su eBay è collocato nella categoria Rarities e costa 113 euro. Però potrei a cosa vendere... si riferisce secondo te? Alla prima edizione, no? Beh, quella certo, non censurata. Immagino di sì, immagino. Va bene. Prima stampa. Poi un amico mi manda il suo numero perché vuole comprare una copia della puntata con John Anderson, va bene, ne parleremo, dipende da quanto sei disposto a spendere. Giacomo, scrivi via mail e fate le cose losche senza dirle in giro che è meglio. No, ma scherzo ovviamente. Emi da Firenze dice, sono tornato 15 anni in un botto e sto mimando le movenze di Slash come un cretino. Grande album, all'epoca un vero must, ma guarda, a tutt'oggi un vero must, tutto sommato, io li ho definiti banalmente i migliori eredi degli Aerosmith, però ovviamente Edo sottolinea delle cose molto più importanti. Anzi, prima volevi dire qualcosa. Beh, sì, il colpo di coda, dicevi. Sì, sì, perché alla fine, voglio dire, Guns N' Roses sono arrivati in un periodo nel quale alla fine l'hard rock aveva dato molto, tutto quella scena, appunto, della quale faceva parte i Whitesnake, i Motley Crue eccetera, si stava un pochino saturando, e secondo me, contrariamente a quanto si può pensare, hanno in realtà fatto qualcosa di nuovo, non di spaziale, perché comunque hanno utilizzato diciamo gli strumenti classici per arrivare, però hanno quantomeno aggiunto all'hard rock il punk in modo da renderlo molto spontaneo, anche sì, perché poi con l'album diretto Spaghetti Incident dimostreranno che i loro ascolti adolescenziali vertevano più sul punk che non su altre cose. Sì, in realtà è una prerogativa più che altro del bassista di Duff McKagan, che lui è sempre stato un grande amante del punk. Però comunque Axel ha dichiarato che c'è stato un periodo nel quale non girava mai senza il secondo disco dei Queen e senza Nevermind the Bollock dei Sex Pistols. Quindi quella è, comunque penso che il punk alla fine non abbia mai fatto schifo a nessuno dei Guns N' Roses, insomma. No, infatti, anzi, l'attitudine punk è molto più simile c'è molta più attitudine punk nei Guns N' Roses che in qualsiasi altro gruppo hard rock. Sì, sì, effettivamente l'ho riscontrata anch'io, e poi ripeto, il successo questa cosa non gliel'ha rovinata. Però visto che stiamo parlando di punk, tu accetti provocazioni? Certo. Io ti leggerei questo: Edo, non osannare i Guns, non hanno fatto niente di nuovo, tecnica, ma dai, hard rock, ciao Mox, questo è per me, e poi si firma status quo forever. Beh, allora io dico che il fatto che non hanno fatto niente, il fatto che non hanno fatto niente di nuovo non importa. No, ma ti ho appena risposto, cioè nel senso che pur avendo suonato del classico hard rock, lo hanno saputo rimescolare, è stata l'ultima rimescolata positiva degli anni 80 dell'hard rock. Perché poi insomma, è arrivato il grunge, chiamiamolo grunge, che ha cambiato un po' le carte in tavola. Esatto, gli adolescenti si sono, hanno preferito un altro tipo di sound, eccetera. Però voglio dire, i Guns N' Roses secondo me hanno saputo reinterpretare ancora una volta il rock in quel modo, e in un modo che è stato comunque efficace, e sto parlando sempre del primo disco. Sul discorso della tecnica, purtroppo parlare di tecnica io l'ho sempre trovato una cosa molto riduttiva e limitativa, e mi dispiace che se ne parli. Comunque io non ho detto che i Guns N' Roses erano tecnici, infatti ho parlato di modesta tecnica che la band aveva e ha sviscerato nei primi dischi, perché ci sono delle registrazioni di quegli anni dove si vede che insomma pur avendo una grande carica, in realtà le esecuzioni non erano delle migliori. Tuttavia è stato riscontrato dal mondo che la tecnica è una parte della musica, non è essenziale, quindi conta anche molto il talento. E la capacità di poter comunicare, che è quella cosa che non si impara andando a lezione. Va bene, questa è Mox Edo Rider. Esatto. Gli status quo, in realtà, gli status quo hanno fatto la stessa cosa dei Guns N' Roses. Hanno fatto un inizio. Un po' prima, sincero, magari. Certo, no, ma dicevo come iter. Un inizio brillante per la loro ispirazione, e poi si sono un pochino uniformati. Quindi non li prenderei certamente come quel punto di vista che spacca il culo a tutti. No, vabbè, tutti hanno i loro meriti. Certo. Allora, nel frattempo è finita anche l'altra base, non è buon segno, quindi gli ultimi saluti. C'è la pubblicità e io me ne vado. Gli ultimi saluti anche ad altri amici che ovviamente li inoltrano anche a te. Vabbè, salutiamo Frinz78 che parla di Easy Rider, poi salutiamo Veronica che inoltre i saluti a te. Grazie a tutti. Dice, lo ribadisco Edo, sei scontato, però ne sai una più del diavolo su quello che ti piace ed è positivo. Mox colma le tue lacune e diventerai un'enciclopedia. Grazie dei consigli. Brutus dice, per i Guns Edo è malato, fino a domani ne parla. Infatti quello che sta succedendo eviteremo, caro Brutus. Esatto. Ma da Livorno saluta entrambi e poi l'autista da Firenze ti chiede se è arrivata la cartolina, e qua devi rispondere. Io non l'ho mica ancora vista con la cartolina, caro autista, guarda, ben volentieri, ma guarda qua. Va bene. Saluti anche a Mauro la Pordenone, a Peter che dice che ho la concorrenza di Gasparri e della D'Amico sulla 7. Vinci facile per quanto riguarda il primo, ma con la scollatura della D'Amico fai fatica a competere. Beh, fantastico, ascolti Mox e guardi. E ti guardi la scollatura della D'Amico, va esatto. Bene. Poi saluti ad Arabella che anche lei approfitta per salutare tutte e due, brava, cioè mete dopo la mitica serata di venerdì. E fa il saluto alla mia mitica pancia birrosa, no? Perché è venuta venerdì sera. Esatto, pancia birrosa. Allora, il prossimo pezzo invece ci fa cambiare discorso, però ci fa rimanere in America. Io ringrazio Edo della sua ospitata. È stato adesso un onore. Mettiamo un pezzo di pubblicità e poi partiamo un pezzo di pubblicità con la musica. Buon viaggio con Easy Rider. Brande.